Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Oggi buon pomeriggio proprio non lo posso dire, perché è un'altra giornata drammatica per Emilia e dintorni, che trascorre a contare morti, feriti, danni sempre più spaventosi. Parlare di calcio ha sempre meno senso. Già ne aveva pochino ieri, dopo tutto quello che era emerso da Cremona, e posso soltanto sperare di non aver usato la parola terremoto a proposito di quel che stava venendo fuori. Ho detto sperare senza averne la certezza, perché quando sei in diretta sei anche un po' in apnea e non sempre riesci a controllare il flusso delle parole, perlomeno non di tutte. Speriamo di no. Stasera a Parma non si gioca, lo avete già sentito a giornali radio, era in programma Italia-Lussemburgo, la penultima amichevole italiana sulla strada dell'europeo, e questo è indubbiamente un'altra complicazione sul cammino verso questo europeo. Ora è una rinuncia dovuta, sia ben chiaro, doverosa, ma è anche vero che questa avventura sta continuando a pagare una serie di piccoli dazi, no? Il primo coincise con la morte di Morosini, che sconvolse i calendari e fece saltare uno stage azzurro che Prandelli era riuscito a elemosinare, direi, no? Rispetto al dai club, dalla Lega. Ieri è successo quello che sappiamo, stasera salta questo penultimo collaudo. Al povero Prandelli non è rimasto, e in una giornata del genere, che dare i numeri, nel senso letterale, perché sono state comunicate le esclusioni, sono stati numerati i giocatori, e quindi il numero uno tocca a Buffon. Il numero 2, adesso stanno un po' saltabeccando qua i numeri, comunque facciamo così: i primi portieri, 1 Buffon, 14 De Santis, 12 Sirigu, poi i difensori col 7 Abate, 6 Balzaretti, 15 Barzagli, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 2 Maggio, 4 Ogbon, centrocampisti col 16 De Rossi, col 22 Diamanti, il 13 di Giaccherini, l'8 di Marchisio, 18 Montolivo, 5 Tiago Motta, 23 Nocerino, 21 Pirlo, mentre in attacco, da cui è uscito destro, il 9 tocca a Balotelli, il 10 a Cassano, l'11 a Di Natale, il 17 a Borini e il 20 a Giovinco. Questi, ripeto, sono i numeri con cui la nazionale italiana, che stasera salta per questo lutto che ha colpito e sta continuando purtroppo a colpire il paese, salta la penultima amichevole di Parma contro il Lussemburgo. Questi sono i numeri, dicevo, con cui l'Italia si presenterà agli europei di Polonia e Ucraina. Ovviamente si continua a parlare, e lo faremo tra poco, degli sviluppi dell'inchiesta che ieri ha travolto per l'ennesima volta il nostro calcio, e che non per la primissima, ma insomma in maniera così invasiva sì, per la prima volta ha travolto anche la nazionale, visto che quello che è accaduto all'alba di ieri a Coverciano con Criscito. E allora, più che un commento, un punto della situazione fatto da Prandelli. Non porto Mimmo, lo gli ho spiegato subito lui, perché avrebbe vissuto in questi giorni, non solo a livello mediatico, una pressione che nessun essere umano può reggere. Non è assolutamente sereno, perché l'abbiamo vissuto noi in giornate, quindi è impensabile che possa preparare una competizione così importante. E un altro motivo, che ovviamente verrà sentito, e magari poteva essere chiamato magari prima di una partita, e quindi sarebbe stato veramente un ulteriore problema. Per quanto riguarda Bonucci, a noi non risulta assolutamente nulla di quelle notizie che stanno uscendo, quindi siamo relativamente tranquilli, ovviamente bisogna aspettare. Tant'è vero che Bonucci, ve l'ho annunciato prima, ha il numero 19 ed è stato inserito regolarmente nella lista dei 23. Qui è dura, scrive Sergio da Vignola, che è un ascoltatore abituale. Le scuole sono chiuse, le aziende sono disastrate, la gente è terrorizzata in mezzo alle strade, lo credo Sergio. Io penso che è successo già alcuni giorni fa, ma oggi forse a maggior ragione, tutti, no? Non si possa che avere in testa quello che sta toccando a voi, quello che state purtroppo vivendo. Torniamo a Prandelli, anche se ripeto è sempre più difficile, è sempre più improbabile un programma di evasione in momenti come questo, e sentiamo il suo commento appunto sul più in generale sulla vicenda scommessa. Sì, sono sempre sicuramente momenti difficili da gestire, e lì forse capisci che ci sono problemi più importanti che non certe situazioni del gioco del calcio. No, dobbiamo ricompattare l'ambiente, ma soprattutto pensare che questa è la partita più importante da vincere, non sono tanto gli europei o le qualificazioni mondiali, questa è la partita che tutti noi vogliamo vincere, uscire puliti, e chi ha sbagliato deve pagare. Questa è una linea su cui in parecchi si sono attestati, con parole direi significativamente dure, per esempio anche De Rossi, uno dei leader storici di questa nazionale. Sì, ripeto, secondo me è stata peggio oggi, mi sono svegliato, mi ha svegliato Andrea Pirlo, che sta in camera con me, mi ha letto il comunicato di non so quale agenzia dicendomi quello che era successo. Siamo corsi giù per vedere com'era la situazione, per vedere quanto fosse grave, e poi abbiamo visto com'è andata. C'è il grosso dispiacere, c'è la speranza che più persone possibile, non penso che tutti risolveranno la loro posizione, ma che più possibile mettano a posto la propria posizione, soprattutto almeno quelli che conosco io, è brutto dirlo, ma almeno, non so, Criscito, Mauri, quelli che insomma conosciamo direttamente in quanto compagni, spero che risolvano tutto quanto. Tra poco voltiamo pagina e arriviamo a, cioè torniamo, rifacciamo un passo indietro, tornando appunto all'inchiesta, agli sviluppi di ieri dell'inchiesta, a quelli che nel frattempo ci sono stati di ulteriori, ma anche alla lettura parallela che di questo scandalo ha dato stamane il Sole 24 Ore in edicola, tra poco dopo le notizie del traffico. Vi dicevo di questa doppia lettura che stamane il Sole 24 Ore ha dato rispetto allo scandalo del calcio. La lettura è doppia perché le cronache di ieri hanno evidentemente ampia evidenza, ma c'è in più un conteggio molto preciso curato in particolare da Marco Bellinazzo, che è tornato a trovarci. Buongiorno Marco. Ciao Gigi, buongiorno. E il titolo in prima pagina, che campeggia direi con una discreta evidenza, è calcio a rischio crack, perdite per 428 milioni. Io Marco partirei da un'esegesi, insomma da un dettaglio su questo titolo, per poi arrivare invece alla curiosità dello scudetto virtuoso che, come sempre, come già altre volte, è particolarmente significativo. Beh, abbiamo cercato, Gigi, di capire quanto vale il calcio italiano, il calcio professionistico italiano, quella cifra che prima citavi rappresenta le perdite che Serie A, Serie B e Lega Pro hanno maturato in un solo anno al termine dello scorso campionato. Il giocattolo rischia davvero di rompersi, ed è un peccato perché, nonostante queste perdite, si tratta comunque di una macchina produttiva che ogni anno riesce a realizzare 2,5 miliardi di euro come valore della produzione. Come valore di produzione. È chiaro che poi ci sono difetti strutturali, li abbiamo raccontati tante volte, che fanno sì che questi ricavi poi non si traducano in utili, bensì in perdite. Però è evidente che c'è un grande interesse del pubblico al quale corrisponde la produzione di questo valore, di questa ricchezza. L'inchiesta di ieri evidentemente è un'ulteriore martellata sull'interesse del pubblico, che è poi la radice da cui il valore economico si produce. Se le persone cominciano a disaffezionarsi a questo bellissimo gioco, è chiaro che tutto il sistema non si regge più. Certo, e non può che risentirne. Certo che leggere la cifra di 500 milioni, no, le perdite ormai hanno quasi raggiunto questo livello, comunque un po' di pressione la fa. Sì, tu considera che in tre anni, nelle ultime tre stagioni che si possono esaminare sulla base dei bilanci, le perdite sono sempre cresciute, e in un triennio si è bruciato una cifra pari a 1,1 miliardi di euro rispetto a un fatturato di circa 7,2 miliardi. Questo perché, come dicevo, si genera tanto valore, ma i costi per produrlo sono sproporzionati. quindi c'è sempre questa differenza. I costi sono di 8,3 miliardi, quelli dei tre anni che abbiamo analizzato, e quindi evidentemente c'è qualcosa che non va. Si sa, sappiamo dove bisogna incidere: il costo del lavoro, rappresentato non solo dagli ingaggi, che sono circa 1,4 miliardi all'anno, considerando anche i costi, no, legati alle imposte, certo, che sostengono, certo, le società, ma anche per quanto riguarda gli ammortamenti, cioè questo valore che esprime in pratica i costi dei cartellini, quanto i giocatori vengono pagati, ripartiti anno per anno. Tra ingaggi e ammortamenti, il calcio, diciamo, il fatturato viene assorbito per circa 2 miliardi all'anno. Un'industria non si può permettere di avere un costo del lavoro così, così elevato. Direi proprio di no. Io sono molto combattuto dal fatto che da un momento all'altro potrebbe raggiungerci un collega del giornale radio e toglierci la linea, che da un lato sarebbe, come dire, un sollievo, perché di questo oggi fatalmente si parla e questa è la domanda di informazione vera. Dall'altra è anche vero che le irruzioni nascondono, anzi portano sempre con sé cattive notizie, no? Quasi sempre, quindi non, ripeto, non so cosa augurarmi. Nell'attesa, alla squadra di provincia, l'Oscar di bilancio e di classifica. Questa è una classifica molto curiosa che il Sole ha pubblicato oggi, da cui risulta che nel costo per punto, e cioè nel rapporto qualità-prezzo, ecco, mettiamola così se vuoi, la classifica dal fondo si legge Inter Milan, Roma, Juventus, mentre invece dalla vetta si legge Chievo, Catania, Bologna, Lazio. Vorrei che la spiegassi. Beh, abbiamo semplicemente cercato di utilizzare dei parametri che ci permettessero di capire quanto spendono le società e se spendono bene, cioè se quello che spendono realmente poi si può tradurre in successi in campo. E quindi abbiamo diviso quello che è il costo della produzione per i punti conquistati nell'ultima stagione. È chiaro che è una valutazione arbitraria, ma a mio avviso è la più significativa in questo senso. Ed è venuto fuori quello che sappiamo, che cioè le big del campionato spendono tanto in rapporto a quello che poi hanno conquistato sul campo, perlomeno i punti che guadagnano costano molto, sono salati, laddove invece le squadre più piccole, le provinciali, riescono con sforzi economici evidentemente inferiori a conseguire risultati più importanti. Chiaramente non potranno mai aspirare a vincere un campionato, ormai i tempi dei miracoli sono finiti, sì, quasi, tutti ci auguriamo che non sia così, però la storia degli ultimi anni in Italia e in Europa ci ha insegnato questo. E il Chievo, il Catania e il Bologna sono appunto le squadre, le provinciali di lusso che hanno conseguito un ottimo punteggio in rapporto a quanto hanno speso per allestire la squadra che hanno mandato poi in campo domenica. Leggendo questa classifica, Chievo, costo per punto, Chievo 0,7, che significa 0,7 milioni? Che per ogni milione speso, insomma, è stato guadagnato un punto, per ora 0,7 punti. Mm. Questo è un parametro. No, al contrario, direi che ogni 0,7 milioni è arrivato un punto. Mentre invece per l'Inter, che è l'ultima in classifica, in questa classifica 5 milioni. Per conseguire un Gesù, ragazzi, c'è uno sbilancio enorme, un perché vuol dire. Per questo riflette anche la cattiva stagione. Esattamente, significa che appunto c'è stato un rendimento scarso, certo, dei nerazzurri rispetto al Chievo, ma per esempio anche la Juve, che ha vinto lo scudetto, per conquistare un punto ha dovuto spendere 2,4 milioni e mezzo, appunto, che è già un costo rispettabile. La Lazio, da questo punto di vista, e al di là poi degli sviluppi che ci potrebbero essere, la Lazio con 0,9 ha un coefficiente molto ma molto buono rispetto, sì, alle metropolitane. Rispecchia anche una gestione che è abbastanza oculata da parte di Lotito, ingaggi, a parte l'esperienza Close, che per il quale comunque i soldi sono stati spesi, certo, bene, visto il rendimento che poi ha avuto. Andiamo sull'altro versante e proviamo a proiettarci, perché molti ascoltatori chiedono, scrivono, telefonano, domandano che ipotesi ci sono di date, di processi, di scadenze. Che cosa possiamo rispondere? Beh, il tentativo che farà la Procura federale, visto che una prima tranche del processo relativamente alle squadre di B e di Lega Pro e agli atleti di queste categorie è stata già impostata e calendarizzata, è quella di innestare anche la seconda tranche di procedimenti sul primo. Se questa possibilità venisse scartata perché magari gli atti arriveranno troppo tardi o perché la mole di documenti da leggere, da verificare è ampia, si creeranno le condizioni per un successivo processo che tenga conto, ripetiamo, degli atti di Cremona e degli atti che sono intanto pervenuti da Bari, per arrivare, diciamo, entro la fine di giugno a delle sentenze di primo grado e magari entro la prima settimana di luglio alle sentenze di secondo grado. Resta sullo sfondo l'attività investigativa che si sta concludendo, speriamo, a Napoli, è quella che sta portando avanti, certo, la Procura di Genova, e in quel caso previsioni non se ne possono fare, dipende da quando gli atti poi saranno ritenuti formalmente chiusi e quindi trasmissibili alla giustizia sportiva. Certo. C'è una data che è il 30 giugno entro la quale devono essere comunicate le liste UEFA, ma è probabile che ci sia poi una deroga. E a questo asterisco magari. Ecco, questo perché appunto la disciplina europea è molto più severa da questo punto di vista di quella italiana, nel senso che basta un coinvolgimento anche indiretto di una società in fatti legati a calcio scommesse e queste società non sono ammesse a partecipare, per cui per esempio la Lazio è probabile che perda la possibilità di giocare in Europa League. Notizia che arriva da Cremona, appena battuta dalle agenzie. Il presidente del Siena, Mezzaroma, avrebbe chiesto ai suoi giocatori di perdere una partita perché voleva scommettere sulla sconfitta della sua squadra. Mi sembra grossina, però è una notizia battuta dalle agenzie come tante altre. La circostanza emerge da un'informativa della polizia agli atti dell'inchiesta di Cremona. A chiamare in causa Mezzaroma gli ex giocatori della squadra Carobbio e Coppola. Notizia ovviamente da verificare, ma insomma abbiamo imparato, no, in queste, da Doni in giù dello scorso anno, che la realtà apparentemente romanzesca poi a volte romanzesca non è, non sì. Riguarda Mezzaroma, ma insomma mi ricordo di un film di serie B, un B-movie italiano in cui c'era un presidente che della Longobarda, sì, certo, che certo, chiedeva di perdere per simili faccende, sì, erano tempi in cui dovevi arrivare appunto alle fiction o al cinema per leggere di queste cose, adesso invece diventano se non altro più plausibili. Notizie ben più drammatiche invece arrivano e tra poco ne sentiremo i dettagli in una breve edizione speciale che seguirà gli aggiornamenti di borsa. A Mantova è crollata la cupola della Basilica Santa Barbara, la Basilica Palatina annessa a Palazzo Ducale, e ci sono danni anche a Mantova, al Museo Diocesano, a Palazzo Te, oltre che a abitazioni e chiese. È una giornata così. Per cortesia, domanda Raffaella da Udine. Costo punto dell'Udinese? Ti giro la domanda, caro Marco Bellinazzo. Lo guardiamo subito al settimo posto, l'Udinese con 1,2, quindi c'è quasi una parità, quindi per ogni punto conquistato, sì, l'Udinese spende una. Mi sembra di vedere grosso modo tre grandi fasce. Allora c'è una fascia virtuosa che è quella costituita da, nell'ordine, Chievo, Catania, Bologna e Lazio. Sono le squadre che hanno il miglior rapporto qualità-prezzo, ecco, per metterla in termini. Poi ci sono quattro squadre che hanno un rapporto abbastanza pesante, abbastanza negativo, che sono Juventus, Roma, Milan e Inter, ma Juventus molto relativo, considerando poi che ha anche vinto, comunque è 2-4, è meno della metà dell'Inter, no? Mentre si sale già con la Roma, e poi Milan e Inter sono davvero pesantini. Il resto mi pare sia una fascia mediana, tra il Cagliari 1.1 e il Cesena 1.9, mi sembra che non sì, ci sia questa. Modo, lì si tratta di un rapporto accettabile. Il problema è che i grandi club si portano dietro il fardello di contratti importanti e che quindi appesantiscono, no, i bilanci, e il riflesso lo abbiamo in questa classifica. D'altronde, se una star come Ibrahimovic qualche giorno fa, scatenando tantissime polemiche, ha segnalato certo, che non ci sono più soldi e questa star guadagna, poi è stato ricordato da alcune parti del Milan, 12 milioni netti a stagione, un dato che mi ha sorpreso, pensavo 12 fosse 12 milioni, ero rimasto a 9 anch'io, si vede, e beh, ma gli avranno aggiornato i compensi, il povero ragazzo. Sì, no? perché effettivamente, come dire, si tratta di un ingaggio, tra l'altro un ingaggio abbastanza scarno, e tra l'altro gli è stato fatto notare sempre da questa parte della dirigenza del Milan che si tratta di uno stipendio superiore a quello di Messi, di almeno un paio di milioni. Però Ibrahimovic ha detto che resterà al Milan, e certo, cioè è fedele al contratto. A parte il fatto che vorrei vedere a che titolo i dirigenti del Milan si permettono di ironizzare o di prendere distanza da uno stipendio che gli danno loro, no? Perché perché sai, in questi giorni c'è stata questa polemica su questa spaccatura che si sta creando all'interno della struttura dirigenziale del Milan tra, certo, la storica guida di Adriano Galliani e quella invece nuova legata a Barbara Berlusconi, la nouvelle vague. E evidentemente c'è anche qualche attrito legato alle modalità con cui i soldi di famiglia venivano spesi, sono stati spesi. Senti, c'è un ascoltatore che chiama da Modena e tra l'altro noi abbiamo molti ascoltatori davvero affezionati in quell'area. Allora gli darei la precedenza. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Volevo chiedere quanti soldi devono il fisco le squadre di calcio di Serie A. Pensavo avesse problemi più urgenti e più legati al suo territorio, per la verità, ma meglio così, Andrea, non sia ben chiaro. C'è una cifra interessante per cui l'intero sistema calcio, e quindi evidentemente le società di Serie A la fanno da padrona, paga ogni anno al fisco tra imposte dirette, quelle societarie, l'IRAP e l'IVA, circa un miliardo di euro, una cifra importante. E ci sono però evidentemente anche delle situazioni debitorie. Dovrò aggiornare questa verifica, ma un paio di anni fa avevo fatto appunto un lavoro e mi pare che fossero intorno ai 300 o 400 milioni debiti tributari. Ora la aggiorneremo questa statistica, però è chiaro che poi lì incidono anche situazioni particolari come quella della stessa Lazio, che come qualcuno ricorderà qualche anno fa aveva ottenuto questa dilazione ultraventennale di un debito con il fisco ereditato dalla precedente gestione, dalla gestione Cragnotti, che comporta per la Lazio ogni anno una spesa di circa 6 milioni di euro in tasse e in rate. Certo. Alberto ha chiamato la provincia di Monza, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, prima di tutto un saluto a tutte le zone dei terremotati che in questi giorni qui sto frequentando proprio per lavoro, purtroppo non sono belle cose. Tornando alle cose un po' più futili, ma che sicuramente creano un pochettino di rabbia, il mio pensiero è quello di: perché deve esserci per forza un calcio professionistico con tre categorie? Non si potrebbe fare solo una serie A e poi la serie B e la serie C, bontà del Signore, che prendano uno stipendio normalissimo e che poi vadano a lavorare, come mi risulta in alcune nazioni sicuramente calcisticamente più importanti della nostra fanno? Cioè la Serie A che venga pagata non con i soldi che pagano adesso, perché è veramente pazzesco, è un'offesa a tutto e a tutti, con uno stipendio giusto in base anche a quelli che sono i loro risultati, in base a quelle che sono le vittorie e le altre cose. Dopodiché una Serie C, io mi ricordo a Meda la Serie C pagavano i giocatori 5, 6, 7 8, 10 mila euro al mese, una serie C che c'era lì 3, 4 mila persone a vederla quando andava bene, ma è fuori da ogni limite, da ogni concezione. Sì, io non credo che sia poi così diverso rispetto a paesi calcisticamente più evoluti, Marco? Sì, diciamo che per quanto riguarda il numero delle squadre professionistiche, l'Italia ha un numero esorbitante, siamo ormai oltre 120, anche perché c'è una sorta di selezione naturale in questi ultimi anni per i fallimenti che stanno decimando le società, ed è un bene per la stessa Lega Pro che da tempo cerca di riformarsi. Le squadre non sono oltre le 50 o le 60 in altri paesi come la Germania o la Francia o la Spagna, qualcuna in più in Inghilterra, ma non arriviamo alle cifre italiane. e la densità di società calcistiche in Italia è legata, insomma, a fattori storici, campanilistici, che non abbiamo ora il tempo di ricordare. Certamente è in atto un processo di riforma, la Lega Pro ne è consapevole e sta tentando, il presidente Macalli, in tutti i modi di ridurre il numero delle società. Ripeto, ci sono forti resistenze a livello locale. La situazione economica delle squadre di Lega Pro è evidente, sono società che hanno fatturati in prima divisione mediamente di 2,5 milioni, in seconda divisione di 1 milione, quindi parlo di fatturati medi, e che producono utili credo nel 10%, l'8% dei casi, quindi sono strutturalmente in perdita. Senti, rispondiamo alla domanda strutturale, però ti do non più di 40 secondi. Enrico da Milano scrive: qual è il problema delle perdite quando vengono sostenute dalle proprietà? I contratti vengono fatti dalle società, il denaro che elargiscono i soci danno ricchezza ad altri che spendendo creano volano positivo. Questo è proprio il... Questo è un punto di vista legittimo. Certo. Quello che ha sostenuto Platini in questi anni è che continuare ad affidarsi a mecenati è negativo se il calcio vuole crescere in maniera autonoma, perché si potrebbero verificare situazioni in cui grandi oligarchi o altri, diciamo, mecenati temporanei acquistano una squadra, la riempiono di debiti e la lasciano al suo destino per poi andarsene altrove. Quindi le squadre, questo sostiene la UEFA, noi condividiamo, devono essere capaci autonomamente di generare cassa e quindi di avere ricavi e utili e perdite in equilibrio, se vogliono andare avanti, non affidarsi più agli assegni che arrivano puntualmente, insomma, da proprietà che sono ricche, ma fino a un certo punto abbiamo visto ora in Italia che quando poi c'è una dismissione, no, di interesse da parte di alcune famiglie, di alcuni proprietari, le squadre cominciano a indebolirsi ed è un peccato per tutto il calcio italiano. Per tutto il movimento, ma si capisce. Grazie allora Marco Bellinazzo. Grazie a te Gigi, a presto. Il bilancio parziale di questa altra terribile giornata emiliana di almeno 13 morti, leggo da Sky TG24. Leggo anche da Gabriele Romagnoli, una delle più belle penne in circolazione, leggo su Repubblica una sua di stamane, una sua lettura particolare di quello che è accaduto ieri, e magari ne leggo qualche frammento, poi ascoltiamo qualche vostro intervento. C'è tutto in quello che è accaduto. Il tempo che passa e che non insegna niente. 2006-2012, da una vigilia infame all'altra, il blitz della polizia all'alba, lo strapotere della magistratura e, guarda caso, alla fine, tra milioni di commissari tecnici, l'unico a scavalcare Prandelli è un PM che gli cambia la difesa. Paese corrotto, nazionale infetta, adesso non sparate sul calcio, sulla mentalità che crea, i soldi che fa girare, i patti col diavolo che offre. Sarebbe l'ennesimo errore di prospettiva. Il punto è un altro. Prendi 23 italiani a caso e ti ritrovi gli stessi difetti di queste maschere, la stessa incapacità di accontentarsi, l'irrisione per il comportamento non dico lecito, ma decente. Giovanni, Bologna, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Niente, volevo fare una riflessione perché vi sto ascoltando, non sono un grande appassionato di calcio, ma ho avuto la malaugurata idea di andare a vedere Udinese-Juventus il giorno dello sciopero dei calciatori con mio figlio, quindi una giornata di festa. Prendo 3 biglietti, la partita chiaramente non è stata fatta e ad oggi la cosa è ridicola per quello che vi ho telefonato e sto ancora aspettando il rimborso. E dopo parliamo di tante cose come quello che avete discusso. Ma io penso che sia una cosa che fa riflettere. Beh, ma però dato che sono passati mesi, Giovanni, lei è sicuro di aver seguito le procedure corrette, di aver letto gli avvisi? Non so, provo a chiedere. Ho fatto tutto con la Index, che è una società di supporto Udinese Calcio. Sì. Ho mandato le mie fotocopie di identità, i biglietti, le firme, il codice ABI, tutto. Ho scritto più volte, non mi è stato risposto a niente. Però... mi hanno detto che la pratica era in via di perché l'è. Ho chiamato l'Udinese Calcio perché questo 2 giorni fa, perché veramente siamo, quindi siamo aggiornati, certo. Sì, guarda, 2 giorni fa l'Udinese Calcio ha detto di scrivere, quindi di scrivere anche a Udinese Calcio, che si stava interessando perché aveva capito che il problema c'era e che mi avrebbe fatto sapere. Ad oggi non ho ricevuto niente. Quindi devo spiegare a mio figlio tante cose. Non impressione a chi? Beh, intanto spiegare a se stesso, diffonderle via etere, e questo mi pare che l'abbia fatto. Speriamo sia un disguido. Certo che dopo una serie di tentativi, quali quelli che lei ci ha raccontato, l'ipotesi del disguido perde un pochino di credito a vantaggio magari di altre ipotesi meno lusinghiere per la società. Alberto ha chiamato dalla provincia di Brescia, buongiorno. Buongiorno, grazie a lei e ai radioascoltatori. Domandavo soltanto, tecnicamente mi sono perso forse all'inizio della trasmissione, la classifica di cui parlavate in merito alle spese per punto raccolto durante il campionato, sì. Tiene conto o meno di eventuali premi delle partecipazioni poi ai campionati europei? Alle coppe europee, scusi. Mi spiace che non c'è più Marco Bellinazzi, non le può dare la risposta certamente esatta, però diciamo che di sicuro tiene conto di ricavi e di costi. Quindi, non so, le faccio un esempio: Juventus ricavi 155, costi 198.4, classifica prima, punti totalizzati 84, e allora la divisione tra il saldo negativo, il risultato netto negativo, che è di tanto, perché mi pare sia di 95,4 in rapporto ai punti, e arriva fuori un certo coefficiente, e questo vale per tutte le altre 20 società. Vince chi spende di più, le graduatorie dei conti della Serie A, sto provando ad andare nella leggenda, sulla base dei bilanci disponibili al 30 giugno 2011 confermano che sono i club con i costi maggiori a dominare i campionati. Non le so dire se ci fosse anche quest'altra voce compresa. Alberto, andiamo ad ascoltare una voce, quella direi abbastanza rotta dall'emozione ad un certo punto di Conte ieri sera in quella dichiarazione congiunta con il presidente Agnelli dopo le notizie emerse ieri mattina dalla procura di Cremona. Conte: ho sempre dimostrato integrità morale, onestà, correttezza in tutte le situazioni, sia da calciatore che da tecnico. Col Siena abbiamo vinto un campionato l'anno scorso con 3 giornate d'anticipo, con grande sacrificio, grande sudore, grandi lacrime e grandi soddisfazioni. Ribadisco la mia assoluta estraneità a qualsiasi tipo di fatto, mia e dei miei calciatori. Sono stato indagato, no? Per associazione a delinquere. Ho avuto una perquisizione in casa e io non c'ero neanche. Ho letto il provvedimento, ho visto le poche parole scritte. La prima domanda che mi è sorta, sapete qual è? Come mai non sono stato chiamato dal PM di Cremona prima di subire una perquisizione e prima di subire comunque di diventare un indagato? Penso di aver detto tutto. Buone vacanze a tutti, perché le mie saranno buone vacanze sicuramente. Questa era la voce di Conte nel pomeriggio avanzato di ieri. Alessandro, la finale media, dice: sto fuggendo dal terremoto, mi date un piccolo sollievo con la vostra trasmissione. Ma forse è vero, Alessandro. Tra un po' arriveranno anche notizie un pochino più precise su tutto quanto sta accadendo. Francesco Livorno, buongiorno. Buonasera a lei, telefonavo per questo. Io ieri sera sono ritornato da una partita di mio figlio che gioca a calcio al torneo estivo, e lui è andato a letto e ho acceso un po' di tele mentre mi preparavo qualcosa da mangiare. Su Sport Italia ho sentito, secondo me, qualcosa di surreale, nel senso che in questa trasmissione, intorno alle 23 più o meno, c'era una nuova definizione di pentito in merito al calcio scommesse. Cioè, essendo reo confesso Carobbio, per esempio, non aveva credibilità come pentito, perché ci guadagna in buona sostanza e quindi la sua credibilità è quasi azzerata. Io sono rimasto a bocca aperta, volevo sapere la sua opinione, se tante volte ne avesse sentito parlare. No, la mia opinione, Francesco, è che meno televisione si vede, soprattutto in giornate come queste. Ieri sera ho commesso anch'io un errore, non su quell'emittente, ma su altre più piccole, forse, o almeno presunte tali, e sono quegli errori che una volta l'anno si possono commettere, ma che servono da ripasso e anche da antidoto, come vaccinarsi, e poi per un po' sia tranquilli. Il rimborso per i biglietti di Udinese Juventus andava presentato, la pratica andava presentata entro il 16 settembre. Allora di questo mi informa Franco Piantanida. Poi, questo a proposito della telefonata di prima dell'ascoltatore friulano che chiamava da Bologna a nome Giovanni, se non ricordo male, e che denunciava questa via crucis per riuscire a ottenere il rimborso di quei tre biglietti della prima giornata di campionato rinviata. Può darsi che avesse fatto tutto regolarmente e che questo non sia servito, ci sarebbe poi da stupirsi fino a un certo punto. Strano, perché l'Udinese tra tante società insomma, è una che dal punto di vista organizzativo e del rispetto dei suoi insomma degli utenti dovrebbe essere, pare sia, all'avanguardia. Matteo Comes in regia, Franco Piantanida in redazione, buon pomeriggio, ripeto, non sarebbe da dire oggi. Allora buon proseguimento di giornata, sperando.